Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Io ho vissuto come membro di una generazione in parte bruciata, il fatto di essere arrivato tardi a una scelta forzata, quella di uscire, ecco, non parlo mai di cervello in fuga perché è un po' riduttivo, ma, e credo, ecco, che dare ai giovani, che è molto più giovane di me ormai, la possibilità di integrarsi prima in una dimensione europea, sovranazionale direi, è fondamentale. Cioè il fatto che possano avere una visione più ampia dell'Europa, che vada al di là del loro paese, sempre in un'ottica naturalmente di merito e di conoscenze ampie. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Prima puntata oggi di una serie di quattro estive che ci terranno compagnia in questo mese di giugno con nuove straordinarie storie dall'estero. Proprio le storie saranno il focus principale a Giovani Talenti nelle prossime settimane, in attesa della ripresa del format tradizionale dopo l'estate. In apertura avete ascoltato la voce di Filippo Ronconi, 38 anni, professore associato all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Filippo tornerà in Italia all'Università di Bari tra novembre e l'estate 2014 all'interno del progetto ministeriale Messaggeri della Conoscenza per formare giovani studenti universitari e portarne poi alcuni con sé, i più meritevoli, a Parigi per un semestre. Continuiamo dunque a dedicare l'inizio di alcune puntate a progetti di riconnessione tra i nostri espatriati più affermati e un sistema paese che ha un disperato bisogno anche di loro per internazionalizzarsi. A proposito di internazionalizzazione, se siete artisti emergenti avete tempo fino al 15 giugno per partecipare all'11ª edizione del Premio New York, in palio 4 mesi di studio nella Grande Mela, il premio è bandito dal Ministero degli Affari Esteri. Rimanete con noi, tra pochi minuti annunceremo i 6 vincitori del concorso Giovani Talenti in Europa. È una perdita secca per l'Italia, anche perché diciamo l'Italia si accolla il costo della formazione di questi giovani fino alla laurea e poi vede deprivarsi di queste fondamentali energie, quindi è importante creare le condizioni perché trovino lavoro qui o perché possano tornare qui occupandosi in modo adeguato. Abbandonare per sempre il paese e non vedere la possibilità di tornare in Italia, questo è il fatto patologico. Infine, una piccola nota di ottimismo. Due recenti dichiarazioni al massimo livello politico offrono motivi di speranza. La prima del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al TG5 l'avete appena ascoltata. Napolitano ha denunciato il problema patologico della fuga dei migliori dall'Italia. Il Premier Enrico Letta invece ha scritto al quotidiano La Stampa, rispondendo alla lettera di un giovane amareggiato dall'emigrazione di un amico verso Singapore. Mi scuso con chi è costretto a emigrare, ma l'Italia può farcela, sta a noi. Letta ha aggiunto, il debito più pesante che stiamo contraendo, reiterando gli sbagli delle generazioni che ci hanno preceduto e nei confronti dei giovani. Un errore imperdonabile. A loro devo prima di tutto delle scuse. Ma veniamo alla storia di questa puntata. Ci spostiamo a est. Lo sapete che, secondo stime diffuse dall'agenzia Radiocore, ci sarebbero almeno 9.000 giovani italiani nella Cina continentale, escluso Hong Kong, e che sono triplicati nel giro degli ultimi anni? La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta dunque in Estremo Oriente, dove le opportunità per i nostri giovani esistono. Certo, vanno sudate e conquistate una ad una, ma il mondo a est gira molto più veloce rispetto a questo nostro vecchio e statico paese. Nome: Valentina. Cognome: Preti. Età: 30 anni. Città di origine: Modena. Studi: laurea specialistica in architettura e infine un master in sostenibilità ambientale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: il 2010. Per andare dove? In Cina. Perché? Per lavorare come urban designer in uno studio australiano. Quale lavoro svolge attualmente? Urban designer. Dove? A Shanghai. Tornerai? In Italia non credo, per ora. Dopo 10 mesi di contratto in Cina mi capita ancora di pensare con stupore al fatto di avere un lavoro e uno stipendio, ma sto già pianificando il percorso di carriera che spero di riuscire a percorrere con relativi aumenti di salario. Mi pare che in Italia, soprattutto nel campo dell'architettura, si abbia la percezione di non avere altra scelta che lavorare per pochi spiccioli. Così, Valentina, ti sei presentata qualche tempo fa a Giovani Talenti @radio24.it. Zero soldi, zero prospettive di carriera, una visione impiegatizia e poco creativa del lavoro riservata alle forze più fresche della società. In una immaginaria serie calcistica della competitività globale, dove metteresti l'Italia? Mi sembra che l'Italia sia purtroppo molto indietro rispetto a altri paesi europei e già l'Europa è in una posizione svantaggiata rispetto ai paesi emergenti, quindi decisamente sembra le cose vadano male. Serie B, serie C? Forse C. Partiamo con i tuoi studi. Dopo il liceo scegli di iscriverti ad architettura trasferendoti a Milano, perché? Perché volevo un ambiente culturale più stimolante e pensavo che una grande città offrisse più opportunità dal punto di vista degli studi e anche della futura professione. L'esperienza universitaria è stata in sé decisamente stimolante e formativa, ma purtroppo molto lontana dalla realtà della professione, denunci, anche perché nel frattempo il tuo desiderio di specializzazione in sostenibilità ambientale non trova riscontri pratici e formativi nell'ambiente universitario. Quale voto dai nel complesso alla qualità dell'insegnamento negli atenei? L'insegnamento in Italia, secondo me, può formare professionalità molto buone, è però molto slegato dal mondo del lavoro e ci sono molte lacune, come per esempio la lingua inglese, che non siamo famosi nel mondo per non parlare ancora. È davvero incredibile il percorso lavorativo che ti trovi ad affrontare in Italia dopo la laurea. A Milano pensavo avrei avuto più opportunità, sia dal punto di vista della qualità dei progetti che per quanto riguarda la retribuzione e la crescita. Vogliamo invece raccontare qual è la vera realtà dei giovani neolaureati a lavoro nella capitale italiana del design e dell'architettura? Come molti sanno, tutti i neolaureati lavorano spesso per quando sono pagati per 400 euro al mese o qualcosa del genere, con orari molto prolungati e ovviamente senza garanzie di contratto future. Purtroppo temo non tutti ancora lo sappiano ed è bene ribadirlo. Non avendo intenzione di accettare il lavoro sottopagata e non potendomi permettere di vivere a Milano, sono tornata a Modena, dove ho iniziato a collaborare come libera professionista. La cosa incredibile è che, contrariamente a tutte le credenze, in provincia trovi una retribuzione persino migliore rispetto a Milano. Come te lo spieghi? Forse da un lato perché c'è meno concorrenza dal momento che le maggiori università di architettura italiane sono concentrate a Milano, Firenze, nelle grandi città, e poi forse perché c'è ancora un mondo del lavoro più umano e più provinciale, ma per questo sì, un po' più garantito. Ci sono però aspetti che non vanno assolutamente bene. Uno riguarda la tipologia dei colloqui di lavoro che hai dovuto affrontare, sfrontati e sessisti. Quali erano le domande tipo? Ovviamente i professionisti, quando fanno i colloqui, iniziano a chiedere quali sono le prospettive, se c'è in programma un matrimonio o dei figli, perché non hanno voglia di investire in qualcuno che potrebbe essere maternità l'anno successivo. Magari in un altro paese si sarebbero beccati una denuncia, che dici? Sicuramente, nei paesi di matrice anglosassone queste domande sono assolutamente escluse dai colloqui. Nel frattempo non resti ferma a frequenti workshop, a corsi di specializzazione, ottieni un diploma da certificatore energetico, ma alla fine tutto questo si rivela inutile da un punto di vista della carriera, perché la professione di architetto, soprattutto di giovane architetto in Italia, non è riconosciuta e valorizzata. Da un lato penso che manchi in Italia una cultura dell'architettura contemporanea a livello sociale, e poi perché tutto si riduce a questo sistema di giri burocratici per cui l'unica cosa che un architetto fa è compilare moduli e tentare di aggirare vincoli e moduli urbanistici. E alla fine di questo percorso ostacoli decidi che è il momento di cambiare. Non ero soddisfatta, non vedevo prospettive, e ti iscrivi al Master Internazionale in Valutazione Ambientale e Gestione Integrata delle Aree Urbane all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. In che modo questa esperienza ha rappresentato per te il trampolino di lancio definitivo verso la carriera? Prima di tutto mi ha permesso di arrivare in Cina, un paese in assoluta espansione. Mi ha aperto orizzonti culturali che non conoscevo e mi ha dato una formazione molto specifica che qui è richiesta. Nel corso del master svolgi un tirocinio a Milano, poi un altro tirocinio alla Tongji University di Shanghai. Dici: ero partita con l'idea di poter spendere la mia esperienza in Italia o almeno in Europa per spostarmi eventualmente dall'architettura alla sostenibilità. Hai provato, anche sulla base dell'esperienza cinese, a ritentare la fortuna sul mercato del lavoro italiano. Con quali risultati? Scarsissimi risultati, dal momento che ho mandato molti curriculum ma non ho ricevuto praticamente nessuna risposta. Quindi sì, dopo questo tentativo mi sono di nuovo focalizzata sulla Cina e su Shanghai. Sì, ma Valentina, non è assurdo che un tema così fondamentale come la progettazione urbana insieme alla sostenibilità ambientale venga ignorato nel nostro paese, vittima fin troppo spesso di urbanizzazioni selvagge? Una professionalità come la tua non dovrebbe essere contesa dai maggiori studi professionali qui, oppure ci bastano i geometri? Sembrerebbe che la sostenibilità sia importante oggi, ma la pianificazione urbana in Italia spesso risponde solo alle leggi del mercato e della politica, e la sostenibilità viene solo in gioco dopo, quando si cerca di mettere pezze ad anni che sono già stati fatti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. A Shanghai sono arrivata per caso, alla fine sono rimasta per cominciare una nuova vita professionale. Mi è bastato un colloquio con una design firm australiana per avere l'offerta di contratto di un anno con buona retribuzione e prospettive di crescita professionale inimmaginabili in Europa, sintetizzi. Valentina, non è facile, soprattutto in mercati del lavoro sempre più competitivi, ma chi la dura la vince in Cina? Sì, ci sono opportunità per chi sa farsi conoscere, per chi ha una buona professionalità e per chi riesce ad adattarsi a un mondo che è ovviamente diverso da quello italiano ed europeo. Concentriamoci un attimo sul tuo ambiente di lavoro, davvero un altro pianeta rispetto all'Italia. Iniziamo dal team di cui fai parte, assolutamente internazionale, ma con un'altra caratteristica fondamentale, l'età. Tutti i miei colleghi sono molto giovani, anche quelli che ricoprono livelli più avanzati. Penso che i senior associate e anche i principal siano intorno ai 35-40 anni. E di che tipo di progetti ti occupi? Parliamo di quei piccoli progetti provinciali pieni di freni burocratici dove la creatività era un optional oppure no? Attualmente sono nel team di urban design, mi occupo di progettazione di parchi, aree turistiche, nuove aree urbane che includono spazi residenziali, spazi pubblici, edifici culturali, e sempre cerchiamo di integrare nel design gli aspetti sociali, culturali e ambientali del luogo in cui progettiamo. Alla fine sei riuscita a dare un senso ai tuoi studi, questo lo possiamo dire. Sì, finalmente sì, riesco ad applicare tutte le competenze che ho acquisito in 7 anni di studi. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? La ripresa economica dovrebbe essere basata anche sulla riformazione di una cultura dell'architettura e della socialità. E poi sì, anche la professione dell'architetto dovrebbe essere riformata, perché questo sistema di microstudi, di liberi professionisti purtroppo non funziona e non ci permette di essere competitivi a livello europeo e internazionale. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Valentina Preti, 30 anni, urban designer per la multinazionale australiana Hustle a Shanghai, capitale economica cinese. Valentina approda in Estremo Oriente dopo una laurea in architettura e qualche tentativo di trovare impiego a Milano, prima di scoprire che sarebbe stato meglio lasciare il capoluogo lombardo. Le condizioni retributive apparivano decisamente migliori pensate a Modena. Valentina si rende però presto conto che il lavoro di libera professionista sarebbe stato senza prospettive in Italia. Nella penisola la professione di architetto non è riconosciuta e valorizzata, denuncia. Di qui la decisione di iscriversi a un master internazionale che le schiude le porte della Cina. Arrivata a Shanghai per studiare, vi resta, entrando in una multinazionale. Carriera rapida, team giovane e internazionale. In Cina Valentina può finalmente applicare sul lavoro le competenze acquisite nel corso degli studi, finalmente su progetti di grande portata. Ci raggiunge ora in linea Giancarlo Dell'Aquila, architetto al lavoro per l'ONU a Roma. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Giancarlo, poco più di un anno fa hai scritto una email di fuoco a giovanitalenti@radio24.it. Ho scoperto da poco la vostra trasmissione. La apprezzo molto perché mi riconosco in molte delle linee e dei profili formativi e di esperienze che portate a esempio. E aggiungevi: la mia è un'esplosione di rabbia verso il nostro paese che da tempo ribolle in me e mi spinge a voler dire la mia per le troppe storture che vedo. Sono davvero tante e lo sappiamo, Giancarlo, ma se dovessi sceglierne una in particolare contro cui puntare il dito? Ma direi troppi enti, troppi apparati, lo Stato troppo frammentato, un'attuazione del federalismo che ha creato 20 stati in uno con una normativa sovrabbondante, incomprensibile, che alla fine elimina o porta quasi a zero l'atto creativo di tutto il mondo della creatività e ci blocca troppo per le scartoffie. Quanto ti ritrovi nella storia di Valentina? Ci sono delle analogie con la tua? Sì, anche se ho fatto un percorso al contrario. Io sono partito con l'estero e sono ritornato in Italia. Devo dire che all'estero ho acquisito molte competenze che poi in Italia hanno trovato degli sbocchi, ma in Italia non avrei mai potuto acquisire. Ripercorriamo rapidamente la tua carriera. Ti laurei in architettura a Torino nel 99, fai una prima importantissima esperienza professionale in Cile, poi torni in Italia dove inizi a collaborare con un ingegnere lavorando per appalti pubblici. Pochi anni dopo ottiene un incarico come docente esterno al Politecnico di Torino. Due considerazioni di getto: perché a un certo punto, come affermi, osservi il nostro paese rallentare sempre di più e quali freni stanno depotenziando la nostra creatività? Sicuramente l'avvio di una crisi economica che era già partita, sommata alle problematiche della modalità di lavorare italiana così frammentata e con una normativa così pletorica, scoraggia e disincentiva, e allo stesso tempo rappresenta enormi costi nascosti che non vengono mai presi in considerazione. Un'altra considerazione sull'università: la descrivi come un serbatoio di giovani fortemente demotivati nelle mani di una classe docente che probabilmente non ha mai messo piede in un ufficio o uno studio di architettura. Proposta: dobbiamo cominciare a sgretolare anche queste baronie gerontocratiche negli atenei? Ma un pochino sì, anche se bisognerebbe portare delle nuove competenze, secondo me anche un po' più legate al mondo del lavoro, in maniera tale da avvicinare di più l'università anche poi alla pratica professionale, non solo avere una preparazione in un'ottica, diciamo, per la formazione di professori. Si esce con troppa poca prossimità al mondo reale del lavoro. Nel 2010 hai mollato tutto e ti sei trasferito in Ghana per seguire la costruzione di un gigantesco hotel. Cosa ti ha colpito di più di quell'esperienza? Cosa ti ha aperto gli occhi sulla realtà di un mondo globale che corre e non aspetta più nessuno? Ma tornare a confrontarmi quotidianamente con consulenti che arrivavano da tutto il mondo, ma soprattutto anche dal Medio Oriente, Africa, da paesi che noi neanche consideriamo in Italia, mi ha fatto scoprire realtà lavorative che in Italia non abbiamo neanche minimamente all'orizzonte. Parlo di società di consulenza che arrivavano a 11.000 impiegati, tutti architetti, ingegneri che lavorano in vari paesi del mondo e considerano l'Europa come un mercato morto oramai. 2 anni fa sei tornato, vivi in Italia, lavori per l'ONU in una condizione da espatriato a casa propria, professionalmente parlando. In un paragrafo della lettera che ci hai inviato elenchi una serie di conclusioni, insegnamenti che hai tratto da 20 anni di professione. In estrema sintesi, Giancarlo, dove sbagliamo in Italia? Blocchiamo troppe energie, secondo me, ai giovani che non hanno poi modo di riversarle e quando arrivano a un momento che potrebbero rendere sono un po' decotti. Bisogna andare via, secondo me, giovani per crearsi un background culturale e professionale da rispendere e per sperare un domani di riuscire anche in Italia a rimettere le cose un pochino in quadro, anche se il quadro generale io lo vedo molto nefasto. Valentina, hai una domanda per Giancarlo? Sì, io sono curiosa. Lavorare per l'ONU, un'istituzione internazionale, fa la differenza in Italia? Ci sono più libertà, c'è più spazio per la progettazione integrale e innovativa, oppure lavorare in Italia per qualunque committente è la stessa cosa? Diciamo che non si lavora molto sull'Italia, in questo senso sono come un espatriato in patria, nel senso che progettiamo e assistiamo alle progettazioni per tutti gli insediamenti, in particolare di un'agenzia nel mondo, però diciamo più un'attività di project management, non proprio di progettazione. Capito alla perfezione, speriamo che le cose cambino e cambino in fretta. Grazie a Giancarlo Dell'Aquila. E domanda di rito per Valentina Preti: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Io consiglierei a tutti di partire, ma di partire preparati, con una formazione solida e specializzata, e soprattutto di avere ben chiaro l'obiettivo che si vuole raggiungere, altrimenti si finisce per ritrovarsi all'estero a lavorare nelle stesse precarie condizioni in cui si potrebbe lavorare in Italia. È giunto finalmente il momento di annunciare i 6 vincitori dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci ha tenuto compagnia ad aprile e maggio. I 6, 4 uomini e 2 donne, partiranno all'inizio di luglio con destinazione Strasburgo per presentare le proprie proposte agli europarlamentari italiani in merito a nuovi programmi europei. Ne approfittiamo per ringraziare della preziosa collaborazione l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Questi i nomi dei vincitori in rigoroso ordine di età. Tutti e 6 sono infatti vincitori ex aequo insieme alle loro proposte. Uniformare i programmi universitari europei per la libera circolazione di studenti e lavoratori per contaminare le culture alimentando integrazione. Da Federico De Santo, Roma, 18 anni. Un programma che costruisca team formati da neolaureati di diverse nazionalità chiamati a elaborare progetti in enti pubblici o aziende. Da Enrico Maria Corti, Bari, 21 anni. Integrazione del tirocinio nei programmi di mobilità internazionale di studio, come l'Erasmus, in un ambito di interesse dello studente, creando EU Stage. Da Giovanna Chiara Italiano, Varese, 22 anni. Sgravi fiscali per le startup under 30 e creazione di un database per fare incontrare giovani interessati allo startup nello stesso settore o catena filiera. Da Pietro Porcari, Torino, 22 anni. Creare standard di selezione delle carriere a livello europeo, facilitare l'interscambio tra l'Unione Europea 27 pianificando il rientro dei cervelli. Da Stefano Armando, Cuneo, 25 anni. Propongo un tirocinio in ambito Unione Europea che illustri le applicazioni della Green Economy quale strumento di crescita sostenibile nel contesto di una radicale riforma strutturale. Da Laura Sprenger, Savona, 30 anni. Grazie a tutti per la partecipazione e buon viaggio a Strasburgo. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Ci sono esperienze all'estero che cambiano la vita e che si trasformano anche in un libro. E quanto successo a 40 studenti italiani che hanno vissuto un anno in Cina, paese che fa da sfondo, lo avete capito, alla puntata odierna. Arrivati a Shanghai a fine agosto 2009, hanno iniziato un percorso dagli esiti imprevisti, almeno sul destino futuro di alcuni di loro. Un'esperienza che li porterà da grandi a vivere e lavorare all'estero. Giovanni Gardelli, autore del libro Exchange, evoluzione naturale di un blog, ci racconta com'è nata l'idea del volume. L'idea nasce semplicemente dal fatto che avevo scritto un blog per un paio d'anni e questo blog era diventato il libro un po' di tutte le persone che erano in viaggio con noi e ci ritrovavamo spesso a leggerlo tutti insieme. Di conseguenza più volte mi era stato detto perché non lo pubblichi e niente, un giorno mi sono convinto e ho cominciato a lavorarci. Il blog faceva riferimento a un'esperienza di scambio, ecco, raccontiamo un po' cosa avete fatto in Cina. L'anno in Cina è stato il primo anno della mia laurea specialistica, era un programma in collaborazione tra tre università italiane e cinesi, per cui la classe era composta da studenti italiani e cinesi noi italiani siamo andati in Cina il primo anno per studiare lì e poi i nostri compagni di classe cinesi sono venuti in Italia il secondo anno. E com'è stata questa esperienza nell'aprirvi gli occhi, nel aprirvi anche la mente? È stata fondamentale. Molti di noi già erano andati in scambio nell'università triennale e quindi erano partiti con appunto la voglia di fare un'esperienza nuova, però la cosa più importante e più forte che abbiamo tutti capito e colto velocemente è stato il fatto che l'Italia oramai è un paese di periferia e il mondo sta girando da un'altra parte. Quanto questa esperienza poi, che si può leggere nel libro, è stata poi fondamentale, perché molti di voi sono finiti effettivamente a lavorare all'estero per aprirvi a una dimensione lavorativa internazionale? È stata molto fondamentale, un po' appunto avere un'esperienza all'estero sul curriculum mi aiuta tantissimo, non solo dal punto di vista della lingua, ma dal punto di vista di dimostrare che una persona è appunto in grado di vivere all'estero senza nessun problema. E poi, ripeto, apre la mente, apre gli occhi a tutto quello che c'è là fuori e fa venire voglia di andarsene di nuovo, di cercare qualcos'altro, di cercare di meglio, di cercare di nuovo. Siete poi effettivamente tutti espatriati dopo quell'esperienza? No, una buona metà è comunque rimasta in Italia, però c'è una buona percentuale di noi che è sparpagliata in giro per il mondo, significativa rispetto a tanti altri corsi di laurea che non offrivano questa opportunità di scambio. Perché al di là dell'esperienza all'estero lasciare l'Italia oggi? Mi verrebbe da dire in una parola meritocrazia, che in Italia sembra mancare, soprattutto nell'ambiente lavorativo, e che invece in molti paesi all'estero sembra esserci molto più forte. Per cui al di là del volersene andare, del voler vivere una nuova cultura, c'è anche un discorso di voler fare carriera più velocemente ed avere indietro un riconoscimento per quello che si sta facendo. Il sottotitolo del vostro libro è In giro per il mondo in cerca del domani. Il domani è all'estero, ti chiedo? Domani sì, il dopodomani non lo so, però per ora non vedo nessuna alternativa. Exchange, in giro per il mondo in cerca del domani, di Giovanni Gardelli, è un libro autoprodotto, lo trovate online su Amazon. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è No ai mediocri, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di giugno è: se migra sempre più in due o anche in tre o più ancora, quanto sta diventando un discorso di coppia o di famiglia lasciare l'Italia? Con quali perdite per il sistema paese se ad andarsene un pezzo di futuro giovane e qualificato? Raccontateci le vostre storie. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.